Tutti i nostri piedi sanguinavano e le gambe non reggevano. Tuttavia, alle 3:30 eravamo ancora in piedi. Scavalcammo due montagne. Nel frattempo si era messo a piovere. E alle 7, in mezzo alla pioggia, abbiamo dovuto farci da mangiare. Solo la fame che mi faceva morire mi ha costretto a buttar giù cipolle e pomodori crudi, patate cotte, pane crudo, un po' di marmellata e gavette inzuppate d'acqua. Ci siamo avvolti nella coperta e in un telo da tenda e in mezzo alla pioggia e al fango, tutti sozzi e bagnati, abbiamo dormito. Mi sembra ancora di vedermi, tutto bagnato, rannicchiato in una coperta lurida, sotto la pioggia, con i piedi che mi dolevano e intirizzito dal freddo. Infatti qui di giorno fa caldo e di notte fa freddo, specie in montagna. Eppure non so chi mi abbia dato tanta forza, ma anche il giorno dopo sono riuscito a trascinarmi avanti per fare 10 ore di marcia e avvistare il nemico e 4 mine. Se Dio ha voluto, più morto che vivo, la sera del 1° luglio ho messo piede in caserma. Caro papà, credo tu abbia ora compreso cosa voglia dire fare 2 o 3 giorni di marcia e quanta buona volontà ci devo mettere per tirare avanti. Proprio il giorno avanti alla marcia sono stato messo in prigione per una zuffa accaduta in refettorio. Io non c'entravo per niente, tant'è vero che il giorno dopo, constatata la mia innocenza, mi hanno messo in libertà. Dunque mi hanno preso, fatto spogliare e mi misero in una stanza della prigione. Dopo poco entrò un caporale tedesco alto 2 metri. Mi prese per i capelli, mi domandò la ragione della zuffa. «Je ne sais rien de tu», gli risposi. E mi arrivò una ginocchiata nel basso ventre da lasciarmi senza fiato e urlante a terra. Mi alzò e ripeté la stessa cosa per altre 2 volte. Non ne potevo più. Rotolavo a terra in cerca di fiato e lui nel frattempo mi picchiava con i pugni e le pedate. Questa solfa non so quanto durò perché mi svegliai a bocconi in una cella con le catene ai piedi, sangue da bocca, naso e orecchie. Mi trascinai nella cuccia di pietra e puoi immaginarti quali pensieri mi passavano per la testa. Avrei voluto ammazzarmi. Dopo un bel po' di tempo, però, riuscii a calmarmi. Pregai Dio che mi desse la forza di sopportare per chissà quanto tempo questo nuovo martirio. Pensai a te e a mamma e dopo un po' di tempo mi addormentai. Ognuno si teneva un po' abbastanza le cose per sé. Perlomeno io poi ero il più piccolino, per cui non so se le mie sorelle, le più grandi tra di loro, se ne parlassero. Certamente dopo, in tavola, eccetera, così, non mi ricordo se ne parlasse. Ma io certamente non so risponderti. Capisco benissimo queste lettere di Tony, che c'è appunto piazza disperazione. Scriveva. E i vostri genitori? Anche loro si tenevano il loro dolore, la cosa dentro di sé, insomma. Era una cosa che, così... Non ci sono momenti in cui ne avete parlato, insomma. Io non me li ricordo assolutamente. L'indomani fui chiamato dal tenente e mi lasciarono uscire dalla prigione. Appena posso, questa sera farò una lunga visita in chiesa, un bel po' di tempo che non ci vado. Ed eccoti spiegato anche questa mia nuova avventura in prigione. Forse voi non darete molta importanza, ma vorrei provaste a trovarvi dinanzi ad un colosso che muove le mani e i piedi quanto gli pare piace. Carissimo papà, credevo che la legione mi facesse perdere la fede un po' alla volta, lontano come sono da Dio, ma le tue lettere e quella di mamma, la tua fede incrollabile e la tua fiducia tanto grande nella provvidenza mi hanno fatto capire quanto da ignoranti sia lasciarsi prendere da questi pensieri. E mi sono rafforzato ancora più. Forse una tua lettera adesso mi serve molto più che no tutte le volte che sono andato in chiesa, ma sempre senza un po' di convinzione. Ormai mi sento molto, molto più uomo e non più capace di ragionare con tanta leggerezza come prima. Ora ogni cosa che devo fare ci penso su e quando la cosa è seria, credimi, papà, mi rivolgo a Dio, proprio come te, e sono sicuro che solo Lui può aiutarmi e così credo sia anche per te. E capisco come tu sia fiducioso e sono certo che qualunque cosa potesse accadere sia sempre la migliore. E poi... con quale pretesa posso sperare che Dio mi aiuti e che riesca a liberarmi da questa situazione? Le mie mani hanno costruito questa barriera che mi divide da casa mia e solo la bontà e la generosità di Dio può toglierla. Ma non posso pretenderlo, non ne sono degno. Ecco perché, certe volte, penso che dovrò fare 5 anni di legione e riesco a mettermi il cuore in pace. Ti prometto, papà, inoltre, che non farò più niente che ti faccia dispiacere, come quello di ubriacarmi o di rubare. Sono stato ancora debole, ma ci riuscirò, vedrai. La tua frase che dice «Ricordati che io sono più innocente di te e sono colpito come te. Mi ha fatto pensare e un sacco di rimorsi mi invasero. Ecco, la chiudiamo così questa puntata, con questa storia di soprusi e di violenza che Antonio scrive al padre, con quella frase del padre che tanto lo fa stare male, perché il padre gli dice tu almeno hai una colpa, io una colpa non ce l'ho, eppure sono colpito, la mia vita è colpita tanto quanto la tua. E questo ovviamente è una frase che risuona drammaticamente nella pancia, nello stomaco e nella testa di Antonio. Noi ci sentiamo lunedì, se volete recuperarvi il programma lo potete fare in podcast, altrimenti lunedì alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.